anche lui deve essere contento di tornare a casa, perché fuori di casa ci sono tante donne molto più belle, molto più attraenti e meno rompiscatole, che creano meno problemi. Ce la possiamo suonare come vogliamo, però dobbiamo cercare, scusate, poi dopo chiedete quello che volete. Poi ci saranno gli interventi, le risate sono libere. Però dobbiamo veramente cercare di essere attente. Di essere veramente molto attente. E poi la cosa molto carina è anche vedere, cioè cercare di, proprio con grande intenzionalità, no? Di capire anche come comunicano gli uomini, noi siamo tutte donne, quindi. Cioè abbiamo due linguaggi, parliamo di linguaggi completamente diversi. E parliamo di linguaggi diversi, però ma vuol dire che abbiamo imparato a capire il linguaggio del nostro coniuge e lui a capire il nostro. E quindi quando pensiamo all'altro, no? A me capitava spesso che io arrivavo, allora gli dovevo raccontare nei minimi particolari quello che mi era capitato. E allora dopo 5 secondi mio marito diceva, va bene, ora basta. E io veramente ogni volta lo prendevo come una grande mancanza di attenzione. Dicevo, guarda, non gliene frega niente. Ma pazienza, facevo nella mia testa. E invece poi mi sono resa conto nel tempo che loro parlano un linguaggio completamente diverso, cioè l'uomo esaurisce l'argomento in 4 secondi, cioè lui ha trovato la soluzione del problema in 4 secondi, ha risolto, cioè quindi lui è pronto per andare oltre, invece noi dobbiamo vedere tutte le sfaccettature di tutta la... dobbiamo sviscerare ogni minimo particolare. E allora se noi già impariamo a capire che lui parla un linguaggio diverso, impariamo a capire il suo linguaggio, cerchiamo di non, cioè non ci offendiamo, non creiamo barriere, perché sappiamo che è così, non che non mi vuole bene, perché lui è così, no? La pensa così come tutti gli uomini. E allora impariamo a capire che siamo un po' diversi e quindi non diventa più un ostacolo il fatto che parliamo due lingue diverse. Oppure anche a volte una cosa che capita è pensare un po' che l'altro si disinteressa un po' delle problematiche, no? Oppure che in qualche modo si disinteressa di noi. Allora iniziano i pensieri ricorrenti, perché 20 anni fa, quando tu mi hai fatto questa cosa, io... E allora noi donne siamo bravissime in questo, no? A tirare fuori da tutte le cose possibili. Ecco, cerchiamo di non fare questi errori, perché gli uomini di solito invece sono molto più diretti, non ci pensano, è più femminile questo aspetto. Oppure di pensare, ah certo, se non la facevo io questa cosa, ora potremmo morire. Ecco, nessuno è indispensabile, cioè voglio dire, impariamo ecco, a eliminare questi luoghi comuni che interrompono un po' la comunicazione ed impediscono veramente di diventare una cosa sola, cioè proprio di mescolarsi l'uno all'altro. E ritornando un po' sui nostri passi, volevo tornare appunto a Paolo VI, e lui parla della relazione come una relazione fedele, fedele ed esclusiva, ma non parla di una fedeltà un po' cristallizzata, data dal momento in cui c'è stato il patto, patto nuziale, uno per sempre. Parla di una fedeltà in divenire, cioè una fedeltà che in cui i due si impegnano nella quotidianità ogni giorno. Mi veniva in mente una frase bellissima di Bismarck che lessi un po' di tempo fa, in cui a un certo punto la moglie, così molto insicura, gli faceva notare che lui era sempre in mezzo a principesse bellissime, diceva chissà se ti ricorderai di me. E allora a un certo punto lui le rispose, io non ti ho scelto perché ti amavo, ti ho scelto per amarti. E allora pensiamo un po' a questo, cioè la scelta è nella quotidianità e anche la fedeltà, cioè ogni giorno, ricordiamocelo, io questa persona che ho davanti l'ho scelta oggi, cioè la sto scegliendo ora in questo momento, per cui la tensione all'altro. Io, questo è il mio pensiero, non so neanche se corrisponde poi al vero, però ve lo dico, perché tanto così io sono molto così, come dice mio figlio. E, cioè io non credo che esiste un po' la fedeltà, cioè che esiste l'uomo fedele. Io penso che esiste l'uomo prudente, perché se un uomo è prudente non si mette in situazioni difficili. E allora non è più facile essere fedele se uno è prudente, vive la virtù della prudenza, perché uno prima di lasciarsi un po' andare al collega, alle confidenze, ci pensa un po', no? Dice, ma io un attimo, mette, sì sì, l'uomo in senso, non come genere umano, non come uomo mascolino. Cioè esiste proprio, cioè, l'importanza della prudenza, ma questo è il mio pensiero, poi può essere che vado in ambiti che non... Per cui io ritengo che sia importante, ecco, vivere molto questa, la virtù della prudenza, stare un po' attenti e proprio anche ricordarci nella quotidianità la scelta, cercare veramente di essere, cioè di metterci proprio a questa intenzionalità che ho visto con l'intelligenza, l'ho scelta con la volontà, con la mia libertà, no? Pensare, cioè metterci anche quell'affettività, quella passione, cioè voglio dire, sono brutte quelle coppie che vivono tanto tempo insieme e poi veramente non c'è più passione, non c'è più quella tensione, quell'amore che li tiene uniti, cioè sembrano proprio stanchi, che si trascinano. Ecco, questo non è, questa non è relazione coniugale, cioè la bellezza veramente è di vivere insieme con trasporto, ci vuole veramente intenzionalità anche in questo, cioè devo vivere bene questa opportunità, perché oggi la vivo, domani non lo so, perché non è che la vita è eterna qui su questa terra, cioè, la vita è eterna, ma non qui, ma non è un'altra su questa terra non lo sappiamo quanto tempo ci sarà dato, e allora mettiamoci proprio quell'intenzionalità, no? Anche per questo. E interroghiamoci poi anche quando ci fossero anche delle cadute, ecco, in ambito di fedeltà. Pensiamo, interroghiamoci un attimo, anche sui nostri errori, perché si sbaglia sempre in due, cioè non c'è mai uno che sbaglia da solo, e magari quello è stato un po' più imprudente. E allora cerchiamo di attivare il perdono. Cioè veramente quanto è bello poi poter perdonare l'altro e anche un po' se stessi, perché non è che uno dice ah, perché io sono perfetta, io mai ho pensato di tradire mio marito. E non esistono solo i tradimenti fisici, ci sono anche i tradimenti spirituali. Cioè quante volte uno si gira e dice ah, che bel ragazzo, cioè uno poi va avanti col pensiero e immagina chissà che cosa, no? E allora pensiamo un attimo che di perfetti non c'è nessuno, che forse in potenza chiunque è qua tradito. E allora, facendoci un po' questo esame di coscienza, possiamo anche veramente con grande umiltà pensare che possiamo anche perdonare. Perché se Dio ci ha perdonato e ci perdona continuamente, noi che siamo molto più... Si dà a chi lo richiede, chi è pentito. Ah, certo. No, certo, però anche è bello il perdono in sé, cioè io posso perdonare l'atto a prescindere, cioè la bellezza del perdono è anche questa, cioè perdono l'altro a prescindere da tutto. Poi certo, se l'altro continua c'è qualcosa che non va, e allora in quel caso dobbiamo rivedere la relazione, perché c'è qualcosa che non funziona. E comunque, quindi, vedete che bello anche la fedeltà in questa, cioè sotto questa veste, no? Cioè la fedeltà scelta nella quotidianità, con grande intenzionalità, no? E poi l'ultimo aspetto è proprio l'amore, la fecondità dell'amore, che non è solo fecondo perché genera, no? Altre vite. Questo è un aspetto minimo. Ma l'amore è fecondo in sé, perché i primi a essere generati dall'amore sono i coniugi, i primi a essere allevati dall'amore, i primi a essere proprio cresciuti nell'amore, i primi a realizzarsi nell'amore sono i coniugi. Cioè l'amore è fecondo di per sé, cioè proprio i primi a essere fecondati da questo amore, cioè a diventare persone piene, proprio a riempirsi dell'amore sono proprio i coniugi. Quindi la fecondità è di tutte le coppie, anche quelle che non hanno figli, perché l'amore, cioè, basta, di per sé basta, perché proprio genera, cioè, i coniugi. E quindi vedete com'è bello tutto questo.